Da bimbi noi giochiamo al girotondo, la vita poi ci avvince e ci trascina, è un treno che ci porta per il mondo. Se tu lo sai guidare, a furia di sbuffare, lontano sai lontano si può arrivare, il treno va. E quel trenino che ci trasporta velocemente per le strade del destino, si parte un dì con un miraggio e una valigia piena di sogni ci accompagna lungo il viaggio. Si sogna di raggiungere una meta, la strada è lungo, breve, non si sa. Attento a non sbagliare la tua fermata, perché più indietro non si tornerà. Il treno va, e quel trenino che ci trasporta velocemente per le strade del destino. Gaio triste brontolone, sbuffando sui binari della vita, si ferma ad ogni piccola stazione, ansioso di incontrare un cuore che sappia amare, e allora sarà bello in due viaggiare. Il treno va, e quel trenino che ci trasporta velocemente per le strade del destino. Si parte un dì con un miraggio e una valigia piena di sogni ci accompagna lungo il viaggio. Si sogna di raggiungere una meta, la strada è lungo, breve, non si sa. Attento a non sbagliare la tua fermata, perché più indietro non si tornerà. Il treno va, quel trenino che ci trasporta velocemente per le strade del destino. Corre rapido il trenino per le strade del destino.